Europa 24. Un buongiorno anche da Gigi Donnelli. Dunque, l'Europa oggi in primo piano, possiamo dire ancora l'allarme, un po' la tensione tra Commissione e governi, con naturalmente una declinazione tutta italiana. Comunicazione questa mattina di Claude Juncker, dunque il Presidente della Commissione, dice oggi a rischio Schengen, domani ci si chiederà perché avere una moneta comune, l'Unione Europea è minacciata alla base e forse non ce ne rendiamo conto. Così questa mattina appunto il Presidente della Commissione UE Juncker parlando alla plenaria di Strasburgo. A proposito di tensioni, la nostra Livia Zancanera ha incontrato in occasione degli incontri di Euromone, la conferenza Euromone a Vienna, il ministro delle finanze austriache, e sulla tensione appunto tra Italia e UE il ministro di fatto minimizza, dice al momento ci sono tensioni tra Italia e Commissione, ci sono tra la Polonia con l'Ungheria, insomma, dice il ministro Schelling, tutto sommato una cosa normale. Il servizio. Er sagt Griechenland, wir können die Marine nicht ausrücken lassen. Dopo la decisione dell'Austria di sospendere gli accordi di Schengen sulla libera circolazione in Europa, il ministro delle finanze austriaco ribadisce la posizione del suo paese. Finché non ci sarà una soluzione europea, ognuno farà da sé e questo per l'Europa non va bene, racconta Schelling al forum annuale Euromoney di Vienna. Dobbiamo sederci a un tavolo tutti insieme con Italia, Grecia e Slovenia per risolvere il problema, dice. Da una parte non si riescono a controllare i confini esterni, dall'altra sono tre paesi ad accollarsi gli oneri, Austria, Germania, Svizzera, che accolgono 1,3 milioni di migranti. Non lo accettiamo, il meccanismo di ripartizione migranti così com'è non funzionerà mai, aggiunge il ministro. Ma non è solo sulla questione profughi che bisogna trovare soluzioni, il ministro austriaco parla anche di riforme. La Commissione dice che dobbiamo farle ma nessuno l'ascolta, spiega. Ci sono molti paesi che fanno annunci, la gente vuole risultati e questo vale per tutti. Stesse criticità, sottolinea Schelling, nell'unione bancaria dei capitali. La garanzia unica sui depositi ora non si può fare perché le leggi non sono omogenee, non sono contrario, ma deve essere l'ultimo mattone di un edificio più completo. Serve più dialogo, anche se è normale che ci siano tensioni come tra Bruxelles e l'Italia, la Polonia e l'Ungheria, chiude il ministro austriaco. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vienna. Questo dunque per quanto riguarda il grande capitolo, le prime pagine sulla tensione tra i paesi, ma naturalmente poi c'è l'ordinaria amministrazione e adesso infatti parliamo di agricoltura. Come sapete la politica agricola comune è di fatto il pilastro della politica europea, impegna tra l'altro più di un terzo del bilancio dell'Unione Europea. Ecco, di questi tempi si parla molto di biosicurezza, di insetti killer, sono stati presentati infatti oggi a Bruxelles contromisure contro gli attacchi agroterroristici. Nuove strategie europee per contrastare le minacce accidentali o volute di insetti e funghi killer. Una task force internazionale a Bruxelles per prevenire attacchi alla biosicurezza del sistema agricolo dell'Unione Europea. Il progetto Plant Food Sec mette in piedi un'ampia gamma di strumenti per proteggere l'agricoltura, le coltivazioni e l'industria agroalimentare dei paesi membri, e non solo, perché il problema è globale, come la rete, spiega Maria Ludovica Gullino, direttore di Agroinnova. Una rete d'eccellenza che ha messo insieme 13 partner di 8 paesi, 3 continenti, per la diagnosi di parassiti emergenti nuovi, per prevenirne quindi la diffusione, per contenerli, bloccarli nel caso siano introdotti, anche con dolo per prevenire azioni agroterroristiche. Un problema che tra insetti e funghi killer sta diventando sempre più reale. Sono funghi, possono essere insetti, ad esempio sono la gente, non so, della peronospora del basilico che arrivava con semi infetti, possono essere degli agenti di tracheofusariosi, quindi di malattie vascolari, prodotti molto spesso in Africa e in paesi terzi. Sono arrivati insetti non ad arte, ma sono arrivati, ad esempio, il cimipide del castagno è arrivato con materiale infetto dalla Cina. Certo, un centro di sicurezza virtuale, ma anche sul territorio. Nessuno può risolversi il proprio problema nel proprio orticello, nel proprio frutteto, nel proprio campo da solo, va affrontato a livello europeo. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, con questo è tutto. Adesso la linea, come di consueto, a tutti i convocati. Noi ci sentiamo domani. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.